vedi cosa fa la vita. Riesci a sorprenderti. Arrivi un giorno nella mia vita e devo rendermi a quel sorriso che si accende. Non so tu chi sei.